Buonasera a tutte e a tutti, faccio una piccola introduzione io come l'altra volta, cerco di portare via poco tempo e poi passo la parola agli altri ospiti. Innanzitutto grazie per essere qui stasera, bello vedere che anche il secondo incontro, insomma la partecipazione sembra molto molto buona, e noi dopo la prima iniziativa che abbiamo fatto, che abbiamo intitolato Le mani su Bologna, che aveva copriva dei temi un po' più generali riguardo alla trasformazione della città, visto come è andata sia a livello di partecipazione ma anche a livello poi di discussione, di spunti che sono usciti, abbiamo pensato di trasformare quella che ci sembrava dovesse essere un'iniziativa singola in una sorta di ciclo, comunque in una sorta di appuntamento da ripetere per magari poi andare a vedere più nel dettaglio, più dentro dei singoli aspetti che riguardano quello di cui abbiamo parlato l'altra volta. Quindi siamo molto felici noi di Fratello Resiste che poi i compagni di Gramma abbiano accettato di proseguire, e quindi Camilla di Gramma è qui anche stasera, i nostri due relatori dell'altra volta, quindi Salvatore e Alessandro, hanno accettato di buon grado, e da qui insomma è nata una cosa che questa sera registreremo anche, poi Alessandro dirà come potrà essere fruita, e potrebbe essere quindi il secondo appuntamento a cui poi ne seguiranno altri. Quella di stasera si intitola Il cibo che ci mangia, quindi insomma l'argomento abbiamo chiamato con un sottotitolo la foodification. Sembra un po' quasi un tema accessorio rispetto a quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, quindi questa invasione di offerta gastronomica di dubbio livello che ha portato invaso il centro storico. È chiaro che in realtà non lo è, diciamo che è connessa a stretto giro con quella che è la metamorfosi che sta subendo la città. Gli effetti si vedono in particolare nel centro storico, che è appunto quello che è stato più che è attualmente più al centro delle trasformazioni collegate anche al turismo, e probabilmente è stata la prima cosa che il primo effetto macroscopico che si è visto, forse insieme all'invasione degli Airbnb, però da un punto di vista proprio anche esteriore, anche girando per il centro, la prima cosa che saltava all'occhio quando è cominciato anche a essere trattato dai giornali è stato proprio quello che si è cominciato a definire il taglierificio, e quindi questo fiorire di questa conversione di fatto di tante attività di vicinato in attività ristorative ad uso e consumo del turista. E questa cosa ovviamente quindi è funzionale a quello che sta succedendo, al processo che è in atto nel centro storico e nella città in generale, e chiaramente poi comporta anche le storture come l'essere attrattivo per l'arrivo anche di capitali, di soldi, di attività di illecite. Qui poi stiamo aspettando Sofia, che è una delle autrici di quel bellissimo documentario che ha fatto Libera, dell'inchiesta appunto le incursioni della mafia all'interno di quest'ambito. Io aggiungo, tra l'altro, è una cosa che rende il centro meno vivibile per un residente del centro. Io sono un residente del centro storico, vivo qui in Via del Pratello. È chiaro che nel momento in cui quello che sta intorno a te perde il tessuto di attività di vicinato che hanno una funzione sia di utilità ma anche da un certo punto di vista di aggregazione per in certi casi, vedi tante attività che vengono trasformate a cose che essenzialmente sono utili e sono fatte esclusivamente per il turista che arriva, fruisce e se ne va, Tutto ciò è chiaro che è funzionale anche una trasformazione di quello che è la struttura del patrimonio immobiliare, insomma, delle case, del fatto che poi, insomma, si stia spostando, soprattutto il centro storico, da un quartiere fatto per viverci a un quartiere fatto per fare l'attrazione turistica. Aggiungo un'ultima cosa che probabilmente è anche minore rispetto ai temi di cui parleremo stasera, però credo che non sia da sottovalutare il fatto che, secondo me, anche questo processo è una mortificazione anche culturale della città, perché che Bologna abbia una storia e una cultura che sia comunque connessa anche al cibo, come tante altre città, insomma l'Italia, poi sappiamo di cosa parliamo, non è una, è una realtà, è un dato di fatto. Il discorso è che quello che sta succedendo adesso in realtà mortifica quella che è anche la storia della cultura gastronomica bolognese, no? Bologna è famosa per essere una delle prime città, con l'editto delle mortadelle del 1600, che ha fatto una cosa per proteggere la qualità di un suo prodotto e anche la qualità della vita di chi visitava la città, che è sempre stata una città a vocazione ospitale per l'università, per tante altre cose. Quello che sta succedendo adesso va esattamente nella direzione opposta. Bologna sta mortificando anche questa sua storia, trasformando quello che è un'eccellenza gastronomica o comunque una tradizione in una merce che è funzionale solamente a produrre reddito. E quindi niente, insomma, questo bene o male volevano essere solo alcune considerazioni introduttive. Ora passerei la parola a Camilla e poi cominciamo a far parlare i nostri ospiti. Grazie ancora. Funziona? Sì. Allora, io ringrazio anche io tutte e tutte voi di essere qua questo pomeriggio. E, come diceva Francesco, questo è il secondo appuntamento di quello che sta diventando un ciclo di appuntamenti su dove sta andando questa città. Quindi da lì l'idea di chiamarla Le mani su Bologna. Questo è un percorso che abbiamo avviato come Circolo Gramma insieme a Pratello Resiste, che nell'appuntamento di fine marzo comunque tratteggiava delle linee generali su quello che sta diventando Bologna adesso, quindi i temi che erano stati affrontati, come accennava Francesco, sono stati la gestione culturale della città, che cosa implica fare cultura a Bologna, non solo a livello ideologico, quindi stasera parleremo di cibo e quindi quello che sta l'amministrazione, la città sta mettendo in campo, che è la cultura del cibo, che viene messa a profitto nell'apertura di spazi, mettendo in primo piano anche chi col cibo comunque ci vive. Pensiamo a quello che è il Grand Tour Italia di Farinetti dove Matteo Lepore ha speso tante parole per far sì che quel progetto continuasse, quando in realtà la cultura, quella di base sociale, la cultura che fanno i lavoratori e le lavoratrici all'interno di piccole associazioni, all'interno delle biblioteche, dei musei, in realtà vengono messi da parte e non vengono considerati. L'altra volta abbiamo anche parlato di quelle che sono le trasformazioni urbanistiche della città, del trasporto pubblico, del rincaro del biglietto, e quindi a chi lo paga questo biglietto? Quindi è una città a misura di cittadino o effettivamente una città che guarda solo al turismo che in questi anni sta aumentando a Bologna. Tutto ciò poi si lega a quello che è il rincaro degli affitti e degli immobili a Bologna, e sta diventando sempre una città più respingente per chi la abita. Avevamo affrontato anche il discorso sulla connessione affitti università. Chi si può permettere di venire a studiare adesso a Bologna? Nessuno, perché anche le borse di studio che vengono erogate comunque non permettono agli studenti di poter vivere e accedere alla città come lo era una volta. Quindi adesso speriamo che questo percorso possa continuare, perché di argomenti di cui discutere ce ne sono molti. Francesco parlava del centro città, ma anche le periferie, le prime periferie di Bologna comunque stanno assumendo dei tratti di centro città, di città vetrina, e quindi sempre più chi vive, chi ha un salario minimo, chi è precario, partite IVA, disoccupati, trovano sempre più inaccessibile questa città. Quindi diamo il benvenuto anche alla nostra seconda relatrice. Ciao, ben arrivata. Allora, io lascerei la parola a Salvatore o Alessandro, decidete voi chi vuole iniziare. Salvatore, intanto ti faccio una domanda, poi entreremo anche in dialogo con i relatori di questa sera, e io partirei, se vuoi, su il cibo come cultura. Cos'è che sta portando a Bologna, come la sta cambiando, quali sono gli introiti, i profitti che vengono fatti su questa cosa. Grazie. Sarò brevissimo, così poi lasciamo la parola ai nostri due ospiti principali. Allora, questa storia del cibo a Bologna ha un'origine, in realtà. Credo che l'idea primordiale di farla diventare la City of Food possa essere ricondotta al dopo crisi, del post crisi del 2008 più o meno, insomma quando più o meno quasi tutte le città in Italia e nel mondo si sono ritrovate, insomma, a doversi reinventare in qualche modo a mettere in moto qualche meccanismo, qualche processo che favorisse l'attrazione dei capitali. È molto interessante andare a guardare cosa raccontavano i quotidiani all'epoca, e leggere tutte le varie dichiarazioni. Io lo faccio ogni tanto per curiosità mia personale o come passatempo. Intorno al 2010, 2011, 2012, 2013 ho notato che c'era una forte coalizione di questi soggetti, Confcommercio, Aeroporto, Ascom, Federalberghi e molti altri, che iniziarono a insistere su una città che doveva cambiare, che doveva trasformarsi e doveva accogliere in qualche modo più turismo. Andrea Babbi, direttore dell'Agenzia Nazionale del Turismo, diceva che Bologna, questo lo diceva nel 2013, se non sbaglio, aveva la puzza sotto il naso perché non voleva aprirsi al turismo di massa e non voleva sfruttare le sue risorse, quindi in particolare il cibo, per aprirsi a questa nuova economia. Quindi in realtà, cioè, la città era refrattaria a questa roba qua. C'era qualche resistenza, ma una coalizione di volenterosi ha messo in moto, insomma, una campagna molto efficace per abbattere queste resistenze, e sono stati molto bravi perché ci sono poi chiaramente riusciti. Rispetto al cibo e al rapporto con la cultura, sicuramente Wolf ora ci dirà molto di più. Nel suo libro è spiegato in maniera molto chiara l'effetto della monocultura, non solo a livello agricolo, ma anche appunto nelle città. Però sì, è successo fondamentalmente quello poi, no? Che il cibo, quindi la grassa, ha come dire, offuscato tutte le altre caratteristiche di Bologna, quindi anche la rossa dal punto di vista politico è la dotta dal punto di vista dell'università. Perché secondo me il progetto è stato quello proprio di intervenire sull'immaginario della città e trasformarlo, cambiarlo, perché quell'immaginario legato appunto alle controculture, sottoculture, a un certo modo di intendere la politica, la tradizione comunista, all'università come luogo di sviluppo di quelle idee, non andava bene per l'attrazione dei capitali. Ora voi immaginatevi un investitore che deve investire in una città di quel tipo lì, no? Quindi nella città comunista, nella città rossa, nella città dove ci sono sempre le proteste, nella città dei servizi, dei centri sociali, che tipo di voglia possa avere? E invece immaginate ora lo stesso investitore a investire nella City of Food, cioè cambia tutto chiaramente, no? E quindi cioè, questa cosa qua, questo meccanismo serviva proprio a questo, cioè a portarsi dentro a portare dentro nuovo denaro, e il cibo in realtà è stato soltanto un innesco, cioè non è stato il punto d'arrivo, ma è stato il punto di partenza. Ora qui si può aprire un altro capitolo molto più lungo, però la faccio breve perché voglio passare la parola a Wolf, ed è interessante da questo punto di vista perché il suo libro, che è un libro interessantissimo e vi consiglio dopo di acquistarlo perché ha appena portato le prime copie, le ha scartate proprio qua davanti a noi in anteprima, prende anche il libro come spunto il cibo per parlare fondamentalmente del concetto di merce e del modo in cui la merce trasforma i territori e trasforma le relazioni sociali e quindi diciamo modella nel nostro caso specifico la vita urbana. Mentre noi magari pensiamo che sia la merce a modellarsi attorno alla città, nella realtà è la città che si modella attorno alla merce, e questo lo spiega benissimo Wolf, che nel libro appunto racconta anche il concetto di monocultura, e che ora farei insomma spiegare a lui. Grazie, io spero che parlasse anche Alessandro prima di me. Ah, che peccato, quindi mi tocca. Va bene, grazie dell'introduzione, grazie dell'invito a chi ha organizzato, grazie a chi è presente, e non so se ho qualcosa di altrettanto interessante da dire. Anch'io ho osservato quella fase, ma sarò breve, nel senso che magari dopo sviluppiamo un po' di discussione. Anch'io ho osservato con interesse quella fase 2010, 2012, 2013. È stata la fase, sì, sicuramente un magma primordiale della Bologna del cibo, con un ruolo straordinario di quello che adesso fa ridere, ma allora sembrava il personaggio emergente in Italia, in coppia con Renzi, cioè... Vedete, sembra molto remota questa cosa, che era Farinetti, no? Per cui mi sembra che fu il 2013 quando fu presentato in comune con un unanimismo degno di miglior causa questo progetto fantastico del FICO. E c'erano ancora dei fastidi, c'erano dei disagi sia interni alla politica, alla politica politicante, quella dell'amministrazione, che interni addirittura alle strutture amministrative, però furono travolti dalla gioiosa macchina da guerra, qui cito un altro dello stesso giro, insomma, di una generazione prima dello stesso giro, della gioiosa macchina da guerra di Renzi e Farinetti, e quindi tutto si cancellò. Però io, in realtà io non vedo in maniera del tutto analoga la sequenza, nel senso che gli elementi che sono stati messi a profitto, che sono stati trasformati in merce di Bologna, in realtà poi sono tutti un po' presenti, perché l'elemento della controcultura è stato fortemente compresente. Adesso è diventato improponibile dopo il 2020, e dopo insomma, queste ultime trasformazioni così, così radicali, perché non esiste più quel luogo che produce quell'immaginario che verrà mercificato. Cioè sì, ormai esistono solo le ombre delle ombre delle ombre di tutto ciò. Però quando per esempio sbarcò quest'altra cosa che sembrava, poi ha cambiato nome adesso, allora si chiamava Student Hotel, che adesso si chiama in un altro modo, Photo Hub, esatto, Social Hub, e lo fece con grande accompagnamento di fanfare di controculture, per cui addirittura evidenziarono come un di più il fatto di andare a occupare quella palazzina Telecom che era stata occupata da famiglie senza casa, insomma da famiglie che vivevano, trovato una casa per diversi anni, e questo, anziché, come dire, ci vergogniamo, lasciamo perdere, veniva anche un po' sbandierato nel nome della controcultura. E quindi insomma, qui siamo in una galassia che riguarda, non so, Berlino, per esempio. A Berlino nessuno si è mai fatto scrupolo, no, rispetto a queste operazioni. Su Bologna la cosa, poi chiudo veramente perché non voglio fare una lunga introduzione. La cosa che mi ha colpito è stata, e che mi ha spinto anche un po', devo dire, a smettere di scrivere cose che assomigliassero a delle inchieste, è stata la totale incapacità da parte nostra, da parte di chi si opponeva a questo stato di cose, scrivendo, facendo volantini, facendo, vabbè, non voglio dire manifestazioni, perché le manifestazioni degli ultimi anni non sono state proprio vivacissime, però insomma facendo cose e proponendo idee a partire da quei lontani anni 10 sul tema di questa trasformazione urbana, che già allora io non avrei immaginato così tanto, però insomma che si prefigurava qualcosa di molto aggressivo. Ecco, io nel mio piccolo io ho scritto varie cose, non so, ricordo inciso brevissimo, un'altra cosa che per esempio è stato un passaggio contro cultura, messa a reddito, e in cui ci siamo cascati anche noi, diciamo, io non so più come definirmi, però sicuramente in quel momento mi definivo sinistra radicale, però che ci sono cascato dentro anch'io e tantissimo, era la movida era vista come qualcosa urca, dopo la Spagna franchista, no? Era il modello della movida. In realtà con un po' di distanza avremmo potuto capire che la movida non aveva nulla di oppositivo, era semplicemente mercificazione dello stare insieme. Ecco, e dicevo, ecco, che quello che mi ha spinto a smettere di scrivere cose tipo inchieste e cose di questo tipo, questa roba qui che non è necessario che mi interessi minimamente, però lo annuncio per chi non lo leggerà, non ha niente a che fare con un'inchiesta sul cibo, nel senso che cerco di spostare la cosa su un piano molto più astratto, sulla merce e su come noi ci poniamo rispetto alla merce, perché quella roba dell'inchiesta io l'ho vista consumarsi, ma ho scritto pagine su pagine sul fico. Allora, una cosa che mi ha colpito è che, e lo dico, non lo so, chi mi conosce sa che sono sincero, non è una cosa dire non mi avete riconosciuto, io non credo di aver mai cercato una cosa personale, però mi ha stupito un po' che le riflessioni successive non tenevano mai conto delle riflessioni precedenti, che in alcuni casi erano anche le mie, però lo dico appunto non perché volevo rivedermi riconosciuto nella primogenitura, ma perché è come se si partisse sempre da un cavolo di zero. Questo è zero non nel senso ovviamente della testata, ma nel senso da una tabula rasa, insomma. E questo mi ha colpito, e nulla di tutto ciò che abbiamo fatto, detto, non so, c'era un gruppettino che gravitava intorno a XM, di cui facevo parte, che si chiamava La Foglia di Fico, abbiamo scritto cose su Fico che poi si sono, non in quel modo, però si sono chiaramente realizzate 12 anni dopo. E però tutto ciò non ha generato nulla. La capacità di trasformazione, no? Così come la denuncia che tantissimi tra quelli che sono qui hanno sicuramente fatto, in privato e in pubblico, di quell'arroganza smisurata che caratterizzava il cittadino Matteo Lepore, che è veramente forse il più arrogante degli amministratori che abbia mai visto, ecco, anche questo cosa ha generato? Nulla. La capacità di autoimporsi di questo sistema della merce, di cui il turismo è veramente un meccanismo quasi militare, e poi possiamo riflettere a lungo su come ci comportiamo noi da turisti, problema non da poco, cioè quando siamo turisti, E ecco, bene, questa capacità di autoimporsi è stato qualcosa che veramente mi lascia tuttora strabiliato. Cioè, è stata una decisione presa nei modi in cui si diceva prima e che però è ammacinato. Ecco, questa è la grande domanda. Mentre parlava Wolf, oltre appunto alla foglia di fico, alla danza delle mozzarelle, anche in un certo senso alla santa crociata del porco nell'utilizzo del cibo in chiave politica, mi veniva in mente anche un altro libro suo, sarà che sono un suo affezionato lettore, che è La buona educazione degli oppressi, perché anche quel meccanismo lì poi è funzionale alla trasformazione della città, no? Il concetto di degrado... come dire, in controtendenza assoluta con i dati sui reali reati, eccetera, eccetera. Però, insomma, queste sono dinamiche che non riguardano solo la città di Bologna, lo abbiamo detto anche nell'altro incontro, riguardano ovviamente tantissime altre città, ed è quella che a tutti gli effetti è un'aggressione del capitale. E sotto vari punti di vista, abitativo, eccetera, eccetera. E così passo a Sofia. Tra questo capitale c'è anche il capitale mafioso che, come dire, ha colto un'opportunità dall'esplosione della ristorazione? Sì, allora, sicuramente ha colto un'opportunità e l'ha colta in modo abbastanza semplice, cioè nel momento in cui ci sono soldi e nel momento in cui c'è un'espansione di un certo tipo come quella che è stata raccontata, i capitali mafiosi che devono essere reinvestiti e riciclati in un tessuto economico legale tendenzialmente sano, fertile, trova gioco facile. In questo sicuramente la città di Bologna ne è un esempio insieme a tante altre sicuramente, ma oggi parliamo di questo e ne è un esempio sotto diversi punti di vista non sempre interpretabili, nel senso che noi abbiamo da una parte tutto un tema di riciclaggio nel mondo della ristorazione, del settore ricettivo, in tutti quei settori che con la turistificazione ovviamente sono in continua e costante crescita ed espansione, e abbiamo però tutta un'altra serie di attività che al contrario non sono magari sorte da capitali criminali, mafiosi, ma che utilizzano uno schema societario che è comunque predatorio, e questa forse è la difficoltà più grande nel riuscire a leggere come sta cambiando la città, il centro di Bologna negli ultimi anni soprattutto. Ora il lavoro che abbiamo fatto noi riguarda gli ultimissimi anni, per cui sicuramente non ha una capacità di lettura storica e di attualità ampia, però quello che vediamo credo da cittadine e cittadini tutti i giorni è una città che cambia in continuazione costantemente, e in questo sicuramente nel lavoro di provare ad andare a vedere chi c'è dietro quelle attività che si stanno prendendo il centro storico, cioè chi c'è dietro che di fatto hanno molto più potere rispetto ad altre, per cui grandi gruppi societari, catene che si continuano ad espandere, attività a prima vista separate, ma che poi se si va a vedere dietro, ecco, alle misure e agli schemi societari dietro si trovano sempre gli stessi imprenditori che non possono essere ricondotti a famiglie o personaggi criminali o mafiosi, ma che sicuramente hanno uno schema predatorio che si sta di fatto prendendo il centro della città. Ecco, in questo è un qualcosa di evidente, di chiaro, sono voci che girano da tantissimo tempo, ma andare effettivamente a vedere cosa c'è dietro fa abbastanza impressione, anche perché dietro c'è un dato molto semplice, che è quello del sistema economico in cui viviamo, cioè chi compra è chi ha una grande quantità di denaro e quindi chi ha molto più potere economico, generando un'esclusione che è sotto gli occhi di tutti. Parlando con una serie di ristoratori e ristoratrici ci dicono: ma sai, se ci vengono ad offrire 200-300 mila euro in contanti, qual è l'alternativa in un settore che è sempre più competitivo, che comunque è difficile perché la ristorazione non è un ambito facile, quindi l'esclusione arriva in modo neanche sempre minaccioso, aggressivo, ma a volte in modo diciamo naturale, anche se per noi non lo è, però naturale in un sistema come quello in cui viviamo. E qua sta un po' la differenza: da una parte abbiamo grandi capitali che vengono reinvestiti, che sono capitali mafiosi, le ultime operazioni che hanno coinvolto la città, Omar Mohamed, Saverio Giampà, il proprietario della pizzeria Due Torri ce lo dimostrano, sono capitali, intestazioni fittizie, riciclaggio di soldi che secondo gli inquirenti sono di provenienza criminale o illecita, e dall'altro abbiamo appunto questi grandi gruppi che non possono essere ricondotti alla criminalità. In entrambi i casi c'è un dato, cioè in entrambi i casi abbiamo una trasparenza iniziale, un tutto perfetto andando a vedere quelli che sono i contratti di lavoro, tutti i controlli che vengono fatti non portano mai niente, perché dietro c'è semplicemente una grossa emissione di capitale che non può essere verificata sempre e verificabile. E dall'altro abbiamo invece tutta un'altra serie di attività che se non sono mafiose però utilizzano un meccanismo mafioso, che è quello del fare leva su uno stato di bisogno. Fare leva sullo stato di bisogno è quello che ha sempre caratterizzato la forza delle mafie in un momento, in un periodo storico e in territorio in cui il welfare evidentemente non è adeguato. In questo caso fare leva sullo stato di bisogno è un qualcosa che in una città sempre più turistificata, in continua espansione, in cui c'è un continuo ricambio e una continua necessità di lavoro, diventa una caratteristica che attraversa tutti i gruppi imprenditoriali, mafiosi e non. E questo fa abbastanza impressione nell'andare a cercare di distinguere quelle che sono appunto le attività mafiose e quelle no, perché di fatto le caratteristiche in senso astratto, poi ovviamente andando a specificare tutte le attività insomma singole, il discorso diventerebbe troppo lungo, però le modalità di predazione, di leva sullo stato di bisogno, di leva sulla necessità economica sono esattamente le stesse. Io chiuderei qua questa prima parte perché è stato... C'è una domanda a Sofia, così poi dopo Alessandro a Wolf ci incastriamo così. E quello che hai detto è molto interessante, in particolare mi fa riflettere su una cosa, sul fatto che insomma per non si tratta solo di mafia, ma anche di atteggiamento mafioso, no? Quindi l'idea che a Bologna non ci sia la mafia, secondo me, è anche legata a questo, cioè che spesso pensiamo alla mafia come alla criminalità organizzata e basta, però molte volte la mafia si nasconde anche, no, negli atteggiamenti, ed è molto evidente anche nell'inchiesta che avete fatto, molto coraggiosamente tra l'altro, e di cui vi ringraziamo tutti e tutte. No, io pensavo a questo, che chiaramente ogni crescita molto repentina si porta dietro flussi di denaro difficilmente controllabili, sia riguardo alla provenienza sia riguardo poi alla destinazione, e sono rimasto impressionato quando qualche settimana fa ho scoperto, grazie a voi, che in Emilia-Romagna ci sono solo 4 magistrati che si occupano di antimafia, cioè in tutta la regione. Quindi quello che voi raccontate, oltre ad essere importantissimo, è probabilmente solo una piccolissima parte di tutto un mondo sommerso che noi non riusciamo ancora a vedere, e che appunto è condizionato dal fatto che da una parte ci sono pochissimi magistrati, e non capisco perché la politica locale non si spenda per richiederne di più, cioè lo capisco, posso immaginarlo, però sono ipotesi, cioè si chiedono sempre più poliziotti ma non si chiedono mai più magistrati, che è una roba un po' strana, no? I poliziotti hanno un effetto immediato nella comunicazione politica, la magistratura invece no, che ha tempi molto più lunghi e non fa parte della propaganda securitaria, chiaramente. Ma ci sono anche pochi giornalisti d'inchiesta a Bologna. E forse questo, mi viene da pensare, deriva dal fatto che, essendo Bologna una città che sempre comunque ha avuto i suoi anticorpi, ha tardato anche, no, a sviluppare a svilupparne altri, come appunto il giornalismo d'inchiesta. Io volevo chiederti se nel vostro lavoro, cioè d'inchiesta antimafia soprattutto, che è quella più insomma pesante dal punto di vista anche psicologico rispetto alle ritorsioni che Sofia e Andrea poi si trovano a dover fronteggiare tutti i giorni, che magari poi ci racconterai. Ecco, volevo chiederti se rispetto a questo vi sentite nel vostro lavoro anche un po' isolati e qual è stata poi la molla che vi ha spinti a partire rispetto a questo? Grazie, sì, provo a fare un discorso complessivo tenendo insieme quello che hai detto, che sicuramente dà un sacco di spunti, a partire da un tema che riguarda da una parte il modo in cui si fa informazione in città e non solo, a livello locale più in generale, che riguarda il capire chi sono le vittime di determinati sistemi, che credo sia un po' quello che manca nel racconto legato a mafia e criminalità e non solo. Spesso si parla di numeri, di grandi processi, di arresti, di operazioni, ma non si va mai poi di fatto a capire cosa c'è dietro, quali storie ci sono anche solo negli atti processuali, che sono pochi, ma raccontano una realtà che è sicuramente inquietante. Le vittime di quei sistemi sono lavoratori e lavoratrici sfruttate, sono prestanome che accettano di essere legali rappresentanti di società in cambio magari di 1.000-2.000 euro se va bene, perché di quei soldi hanno bisogno. Nelle ultime operazioni c'era un senza dimora proveniente dall'Ucraina, c'era un lavoratore disoccupato, c'era una madre di un figlio di un bambino disabile che poi è stata arrestata e tra l'altro si è suicidata in carcere diversi anni fa ormai, per cui tutte storie che raccontano effettivamente il paradosso di un sistema che è quello, però non è il sistema mafioso, è il sistema in cui viviamo, in cui evidentemente non ci sono abbastanza tutele per quelle persone che si trovano in stato di bisogno. Ecco, provare a raccontare quelle storie forse aiuterebbe anche a capire effettivamente come agiscono le mafie e la criminalità su questi territori, ed è una cosa che è sempre mancata, ma è mancata con il maxi processo Emilia e manca ancora di più, figuriamoci, con tutti gli ultimi processi che riguardano questa città. E c'è un legame tra questo, credo, cioè il non sentirsi tutelati ha portato anche a meno denunce, a meno segnalazioni, a una scarsa fiducia comprensibile, credo, nelle istituzioni, per cui molte persone che incontriamo ci dicono: oh, io ho già denunciato ma non è successo niente, perché ci sono 4 magistrati della DDA, che sono pochissimi, perché in generale sono pochissimi, perché chissà mai se si arriverà a un qualcosa, perché l'ispettorato del lavoro sono 50 su 90 e il motivo tra l'altro è perché non trovano casa a Bologna, perché i prezzi sono troppo alti, per cui chi dovrebbe controllare sul lavoro non trova, cioè non vuole vivere qua perché i costi sono troppo alti, per cui abbiamo risorse ancora in meno nel controllare le irregolarità lavorative. Dall'altra ci dicono: ma uno, non mi sento tutelato, cioè se io denuncio poi cosa succede? Io magari comprensibilmente sono un lavoratore o una lavoratrice sfruttata, come è successo nel caso di Omar Mohamed, con una persona anche che ha subito atti, veri e propri atti persecutori. E come fai ad essere sicura che poi magari verrai chiamato in processo anni dopo a testimoniare davanti alla persona da cui sei stato sfruttato in diversi modi? Io capisco che ci sia una difficoltà e c'è stata anche una mancanza, che è quella di un... non so cosa... mamma mia... di un certo tipo di racconto, appunto. E in questo devo dire che nei primi tempi sicuramente ci siamo sentite sole, perché anche un certo tipo di giornalismo locale si è schermato dietro al fatto che non c'erano condanne, non c'erano sentenze, non c'erano rinvii a giudizio. Quindi la risposta che ci è stata data: ma perché non riprendete questa o quest'altra notizia? Perché non c'è il processo, perché non ci prende alla responsabilità, perché poi ci querelano, ci diffidano, eccetera. E sta là sicuramente il grande problema di una rete che manca, se non Radio Città Fujiko e Zero, che probabilmente tra un po' riceveranno le stesse nostre querele. però insomma, un certo tipo di giornalismo locale, indipendente, che invece decide di farsi carico di determinati aspetti e determinate denunce. Però anche là sta il problema, cioè davvero finché non c'è una sentenza, una condanna, ma ci sono dei fatti chiari che emergono o dalle ordinanze o ancora peggio da testimonianze che vengono raccolte da determinate persone, non c'è la volontà di una comunità di operare, agire in un certo modo, di attivarsi, di capire cosa si può fare per ricostruire quella rete che evidentemente è venuta a mancare, se quella situazione è nata, se non è stata denunciata, se le persone dicono ah ma si sa da anni, ma avete scoperto l'acqua calda, ma va benissimo che scopriamo l'acqua calda, cioè ci mancherebbe, non ci offendiamo, però perché non è uscito prima? Perché non c'è stata una forza di comunità, di una via, di una strada, di un gruppo di persone che si è messa al fianco di quelle persone vittime di determinati sistemi, vittime di intimidazioni, di minacce, di paura, di violenze e tutto quello che emerge dalle operazioni, non solo, anche solo appunto dalle testimonianze di persone che parlano di sistemi mafiosi, criminali o anche solo predatori appunto. Ecco, in quello sicuramente c'è una grande mancanza, credo, legata anche a un tema più ampio, che è quello di una, come sappiamo, di una libertà di informazione che non viene tutelata. Noi ora veniamo da un incontro di mediazione per l'ultima querela che abbiamo ricevuto e io capisco anche che, cioè, se noi non avessimo un'associazione dietro, dopo la prima inchiesta avremmo smesso, perché paghiamo 40.000 euro di avvocati, abbiamo richieste di risarcimento danni da più di 300.000 euro e sicuramente da singoli freelance ci saremmo fermati subito. Capisco anche che una testata locale non abbia sempre disponibilità per fare determinati nomi e fare determinati lavori, o semplicemente nelle redazioni locali tempo per fare un'inchiesta, però ecco, credo che questo alla città manchi molto, anche in un'ottica di comprensione di quello che accade al di là delle voci che sentiamo e facendo un po' quello che dovrebbe essere il nostro lavoro, credo, cioè quello di leggere quello che avviene sui territori, di sentire le persone che possono essere le antenne su determinati territori o spazi e provare a raccontare appunto delle trasformazioni o in casi appunto peggiori dei casi di sfruttamento, di minacce e altro. Mi aggancio proprio al tema del fare inchiesta, perché il tema del fare inchiesta è anche quello che ha citato prima Wolf, no? Tu hai detto ho smesso di fare inchiesta con la foglia di fico, ma anche con altri lavori, come dire, spesso sono, come dire, sono state anticipate cose che poi si sono effettivamente realizzate magari anni dopo, e tu hai detto non siamo stati capaci di scalfire minimamente questo processo. Però già nel primo incontro di questo ciclo, una cosa che abbiamo constatato da parte del pubblico, al punto che l'altra volta c'eravamo, come dire, come relatori, tra virgolette, solo io e Salvatore, che siamo giornalisti, non è il nostro compito preciso quello di indicare soluzioni. Noi fotografiamo, poi da cittadini sì, per carità, però insomma fotografiamo tendenze, e c'è sempre anche questa domanda sul che fare, che non so se tu hai una risposta, Wolf, però nel tuo libro appunto, a proposito del cibo e della mercificazione del cibo, tu racconti anche delle forme di resistenza e quindi ok, questi grandi processi non siamo riusciti a scalfirli su Bologna ad esempio, ma è proprio impossibile, c'è una roba veramente troppo più grande di noi, dobbiamo ritirarci sull'Appennino come te, no, non lo so, cosa si può fare? Eccolo qua, perfetto, grazie. Sì, ecco, colgo l'occasione per chiarire, il piano inchiesta ovviamente non è come quello che ben più e che va a toccare punti specifici, dolenti, di cui parla Sofia, ma ovviamente erano inchieste in senso molto lato, inchieste in senso, sì, alcune cose a volte ci siamo occupati anche di flussi di denaro, però rimanendo comunque sempre sulle cose facilmente dicibili e che però nel senso cose perfettamente legali, il fatto che il fondo privatizzato dei dipendenti pubblici neerlandesi vada in giro per il mondo a comprare mobili da mettere a profitto senza tanto guardare per il sottile, è una roba che si può tranquillamente dire, è un dato di fatto, non c'è nessun reato dietro. Dopodiché lo trovo comunque abbastanza scandaloso anche questo, no? Cioè, quando questa cosa ci va a toccare come processi di privatizzazione, come e su questo, ecco, è su questo piano che non è quello dell'inchiesta sulla specifica situazione o sull'andazzo, che è più che specifico, però che si muove anche nell'illegalità, nella violenza, persino nella criminalità organizzata, ma in quelle cose che sono meravigliosamente davanti agli occhi, che nessuno nasconde e che però determinano una distorsione e una mercificazione del mondo in cui viviamo, del mondo in cui siamo quotidianamente, e che non possiamo neanche dire è colpa di, perché è una colpa generale. Ecco, su questo tipo di riflessioni, che come quelle idem uguali che ha nominato prima Alessandro sul decoro, che non hanno inciso su nulla. Questa è una cosa che mi lascia davvero sempre molto, molto stupito. E quindi sul che fare siamo sempre appunto lì, ritirarsi in Appennino. No, assolutamente no, è ovviamente una falsa soluzione, non è una soluzione di nessun tipo, anzi replica in Appennino le stesse dinamiche della città. Appena ieri, andando a correre, sono passato di fianco a una casa diroccata nel parco di Bergato, che dicevo, ma chissà chi se la compra questa casa, era in vendita da 10 anni, ecco, visto che l'hanno tempataccata, hanno nascosto le crepe, è diventata, vabbè, non lo posso dire, cioè è diventato un B&B, vi vorrei dire il titolo, ma dopo lasciamo perdere, si lascia perso il nome, altisonante, accontentatevi di sapere che altisonante è piuttosto ridicolo, però è diventato un B&B. Come tante altre, ecco, quindi si replicano gli stessi meccanismi, e non voglio andare oltre perché andrei appunto sugli insulti personali, persone che conosco. E che fare è molto complesso perché il capitalismo ha la capacità di mettere a reddito, di infilarsi in maniera subdola in ogni settore che si anche prometta ancora una piccola opportunità di profitto. Per esempio, sto osservando in questa fase, immediatamente, perché me lo raccontano altre persone, però è uscito anche su alcuni organi di formazione un po' alternativi, girata, insomma, scusate, alternativi una parolaccia, però ci siamo capiti, su cose che nessuno legge, Le trasformazioni per esempio di Mondeggi, che molti sanno che è stata un'esperienza molto bella in provincia di Firenze, e tra queste trasformazioni per esempio l'ultima è l'accettazione di un matrimonio molto, molto inquietante tra agricoltura contadina e agricoltura 4.0. Ecco, per esempio questa è una capacità del capitalismo ad inserirsi in qualcosa che si poneva come totalmente contraddittorio, cioè il ritorno all'agricoltura di prossimità contadina eccetera, con il massimo della redditività del momento, che sono i droni, per dirne uno, o i sistemi, il flusso di dati, eccetera, eccetera. Allo stesso modo ho osservato nei gas la trasformazione di molti gas, alcuni resistono, devo dire, però molti gas si sono lentamente trasformati in delle app che raccolgono gli ordini e che poi consegnano, con tutta anche un'esternalizzazione di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi, di fronte a tutto ciò, io non ho nessuna idea, neppure vaga, di che cosa si possa fare. Quello che su cui sto cercando di riflettere è che comunque sia, di fronte a tutto ciò, corre una sorta di obbligo morale, e probabilmente sto invecchiando, per quando si comincia a parlare di robe morali, perché si sta invecchiando, e corre una sorta di obbligo morale a continuare a fare delle scelte. Cioè, a continuare, nonostante tutto quello che avanza, a riflettere su ciò che si fa e non accettare il biglietto d'ingresso gratuito al parco divertimenti del capitalismo, che tra l'altro è un'immagine che a me piace usare, ma che ricorda perfettamente questa città, tra le altre cose. Ecco, questa non è una soluzione, perché come abbiamo visto rispetto alla città, rispetto al turismo, rispetto alla ristorazione, c'è una capacità della merce di influenzare addirittura col turismo. La merce realizza una sorta di capolavoro, perché non so se vi ricordate quella mi ricordo che anno furono i moti a Berlino contro il governo sovietico, insomma il governo della DDR, forse era 56-55, non mi ricordo, no, è stato un po' prima, 53, in cui gli operai si ribellarono ai ritmi staccanovisti imposti dal partito al governo, no? e alla quale Brecht oppose la famosa sarcasmo, che viveva lì Brecht, oppose il sarcasmo dicendo: è proprio vero, se a questo popolo non va bene il governo, cambiamolo questo popolo. Ecco, col turismo si realizza una cosa del genere, nel senso che si trovano i consumatori adatti a un certo tipo di offerta. Questo ha un che di magico, è veramente una capacità di cambiare le carte in tavola, che è il capitalismo. Poi se lo andiamo a vedere nello spicciolo, sono cose che poi alla fine le capisci con dei meccanismi banali, no? Che sono per esempio il low cost degli aerei. Cioè, basterebbe quello e salterebbe un bel pezzo di questo giochino, capito? E a questo punto torniamo al tema che accennavo prima, che non ha una soluzione, quindi lo lascio dipendere. Questo low cost degli aerei ne sto godendo anch'io, ne sto godendo anch'io. Cioè, capisco che in un'ottica marxista è deprimente questa posizione, è esistenzialista, è intimista, è tutto quello che si vuole, però io credo che questa posizione serve, nel senso, domandarsi che cosa, come sto partecipando io a questo grande gioco, cosa posso fare in meno, come posso mettermi di traverso quando potrei mettermi invece sdraiato e farmelo passare sopra. Questa cosa non cambia nulla sul piano dei rapporti di forza, però consente di lasciare aperto un minimo di riflessione su me interiore. E con questo, come dire, mi sono giocato la simpatia di tutti i marxisti in sala. A questo punto, come l'altra volta, apriamo un dibattito fiume di due ore. No, appunto, io intanto li ringrazio, Wolf e Sofia, perché ci hanno dato da due prospettive, come dire, diverse, attraverso anche i loro lavori, come dire, degli spunti interessantissimi sul tema, che è uno dei tanti, appunto. Noi abbiamo pensato di continuare questa cosa, che speriamo diventi un ciclo di incontri, perché ci serve molto anche fare analisi, perché abbiamo visto anche come, in assenza anche di analisi di giornalisti, di intellettuali, eccetera, in realtà, appunto, Wolf il suo pezzetto, per dire, lo ha fatto, però diciamo a livello più generale c'è una gran penuria, o perlomeno viene percepita una gran penuria e viene oscurato tutto ciò che produce analisi. Le trasformazioni in atto spesso sono, per il singolo e la singola, delle sensazioni, mentre questi incontri servono anche per mettere sul tavolo il fatto che non sono semplicemente sensazioni, sono processi che hanno un nome, un cognome, delle dinamiche ben precise, eccetera. E questo è un primo passo di consapevolezza. Poi, se qualcuno decide che da questo passo di consapevolezza vuole fare qualcosa, però, appunto, ripeto quello che ho detto prima, e che non spetta a due giornalisti, insomma, fare questo. E quindi l'altra volta era nato anche un gran bel dibattito con il pubblico, che aveva posto diversi interrogativi e diverse riflessioni. Quindi, se c'è qualcuno e qualcuna, ecco, vedi là in fondo già. Però, siccome stiamo registrando, vieni, che così alla cattedra, esatto, così entra nella registrazione. Mi sento chiamato in causa, un piccolo pezzo di strada, neanche tanto piccolo, l'abbiamo fatto insieme. Sono tra le persone che hanno provato con un collettivo tra il 2014 e il 2018-19 a criticare insieme a Wolf la City of Food, no? Quel collettivo si chiamava Eat the Rich e ha sperimentato delle pratiche di contrasto alla City of Food, sia a livello di elaborazione di pensiero, e questo Wolf è stato fondamentale, sia a livello di intervento nella città, no? Segnalando le aperture. Mi ricordo quando Berberè minacciava il comune, per esempio, di lasciare Aldrovandi, perché Aldrovandi era una via troppo indecorosa, e noi andammo lì di fronte a dire al comune di Berberè di andarsene, perché questa via vive di quella vitalità lì e non è questo intervento dall'alto che la cambierà. Però riconosco una serie di limiti. Quell'esperienza lì si è esaurita per ragioni che non hanno a che fare con l'esaurirsi della scommessa sulla City of Food, no? Con questioni interne anche molto problematiche che hanno portato alla fine di quel collettivo. Però io, se guardo all'indietro, una serie di elementi deboli nella nostra costruzione politica li vedo. Quello che per me è un elemento problematico è il fatto di aver interpretato la City of Food e comunque le trasformazioni della città legate al cibo, ma come spesso si fa quando si parla di turismo, come un fenomeno di consumo, in cui appunto si dà la critica in termini di rivolta al consumatore. Certo, si accusa chi ha il brand, chi fa speculazione su quella cosa, chi decide le policy, però l'invito è in qualche modo rivolto al consumatore, e io lo trovo in realtà pienamente anche dentro ora, no? C'è questo libro di Saito sulla decrescita marxista, cioè c'è anche tutta una riscoperta di una tendenza marxista decrescista, che trovo anche molto interessante, ma non è quello il punto della legittimità del punto di vista, ma è dell'efficacia. Secondo me abbiamo dimenticato il fatto che è un'industria che muove migliaia di lavoratori e lavoratrici. Noi abbiamo fatto un timido tentativo, ricordo nel 2016, con un'inchiesta che mettevamo gli adesivi nei bagni per parlare con... Però di questa città è abitata da un esercito, da un ancora più grosso esercito di riserva di lavoratori e lavoratrici ultra precarie. E io credo che oltre agli spostamenti aerei, che sono certo fondamentali nel far funzionare questi flussi, ciò che è determinante è anche il fatto che si regga su un lavoro strutturalmente mal pagato, ultra precario... E senza prospettiva, tempo determinato, eccetera eccetera. Ecco, questa cosa qua è qualcosa che, se scoppia, mette a mio avviso in crisi l'intero sistema della City of Food, ma su cui si regge il sistema turistico stesso, e credo che quell'elemento lì sia stato poco teorizzato, poco messo al centro dalle critiche. Ora Napoli stanno facendo un bel lavoro su questa cosa qua, la redazione di Napoli Monitor da anni fa un lavoro interessante su questo, però io credo che oggi, per esempio, costruire questa, io mi investirei molto per cercare di connettere i lavoratori delle cucine, che sono molto difficili da contattare, i lavoratori dei bar, perché sono quelli che in questo momento, e sono anche figure che poi intersecano l'università, sono studenti, sono invece lavoratori più grandi. Ecco, questa figura, secondo me, anche di Castillo Food, questo volevo dire, oggi deve essere centrale, perché senza lavoratori e lavoratrici si fa un movimento di critica dei consumatori che non sappiamo dove ci porti. Altri? Ho letto, ma non so se questa cosa è verificata o meno, ed è una cosa che mi interesserebbe approfondire se avete informazioni, che ci sarebbe una strana fusione a Bologna tra gli interessi dell''Ndrangheta e gli interessi della Camorra in una compartecipazione fraudolenta o comunque nell'ambito delle gestioni. E non so, si potrebbe anche intravedere anche un qualcosa rispetto alla comunità cinese, perché ho visto degli strani incroci anche in quest'ambito. Sarei molto interessato a capire se queste organizzazioni, in particolare Camorra, 'Ndrangheta, perché la Camorra, che sappia io, è un'organizzazione abbastanza fragile, al contrario della 'Ndrangheta, soprattutto sul territorio bolognese, se c'è stata una fusione in questo senso di interessi criminali o pseudo imprenditoriali oppure meno, oppure no. Allora, su Bologna non ho evidenza al momento, devo dire, però è già successo in altre città. È appena partito un processo a Milano che si chiama Idra, che mette insieme 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, proprio perché appunto gli interessi economici sono talmente ampi che non c'è volontà di creare guerre o fratture, ma c'è talmente tanto spazio per tutte le organizzazioni che questo non porta a guerre interne. Io credo che potrebbe benissimo essere anche in città. Ora c'è tutta una parte di criminalità cinese che è molto difficile da portare alla luce e che è legata soprattutto alla 'Ndrangheta e al riciclaggio di denaro in una serie di triangolazioni, ed è già uscita in una serie di operazioni, l'ultima su Promonte Emiliano, che coinvolgeva anche Casalecchio, tra l'altro. Però sicuramente, ecco, se c'è qualcosa... Non c'è stata evidenza, però potrebbe benissimo essere ancora di più appunto in questi settori in cui non conviene farsi guerra. Per ora quello tipico in cui c'era una spartizione del territorio e del settore era il gioco d'azzardo, soprattutto proprio perché c'era un giro di denaro talmente alto appunto che non conveniva. Però questo, cioè, non vedo impossibilità che poi questo si ampli anche ad altri settori. Grazie. Una domanda forse un po' stupidina, perché allora, non sono italiano, quindi di una parte per la lingua e di un'altra parte anche per la conoscenza della legge, però ho vissuto in altri posti dove questa gentrificazione è arrivata ed è stata combattuta di forme diverse. Penso al centro di Guadalajara in Messico e a Parigi anche, e sono stato anche in contatto con persone che vivono in piccoli paesini sugli Alpi svizzeri, che hanno avuto anche una pressione molto forte del turismo. E quello che mi ha un po' fatto pensare è che questi casi diversi hanno avuto risorse legali molto diverse alla loro disposizione. Quindi, per esempio, a Parigi è stata una legge locale che impediva mettere un Airbnb proprio 3 mesi all'anno, perché la residenza legale di una persona è dove, in Francia, è dove si vive 9 mesi. Quindi uno non poteva mettere un Airbnb che non fosse la loro casa sua, e quindi non più di 3 mesi. E il giorno dopo di quello l'offerta di case ha esploso, e si vedevano tra l'altro sui siti di affitto e di vendita queste che erano palesemente Airbnb, con la piccola macchinetta del caffè, tutto quello che erano adesso messi in vendita o in affitto, no? Uno di questi paesini degli Alpi, per esempio, hanno deciso di fare un tipo di zoning che faceva che non più di un X% delle costruzioni poteva essere dedicato alle hotel, per esempio. E quindi anche quello faceva un limite e rendeva quella parte un po' più vivibile. Quindi la mia domanda è, in Guadalajara invece è un disastro totale, e la mia domanda è: in Italia esistono delle risorse legali come quelli? Esiste una indipendenza forse della municipalità che possa permettere un'azione politica di questo tipo o no, o forse è troppo tardi perché avreste dovuto fare prima che sia già tutto fudificato? Cioè, non lo so, lì si può esplorare una via in questo tipo o no? Allora, al netto del fatto che questi processi che riguardano il turismo e riguardano l'esplosione del cibo, in realtà dalla politica anche locale sono stati favoriti, che è quello che dicevamo, no? Quando parlavamo di Bologna City of Food, è un city branding fatto dalla Fondazione Innovazione Urbana, un'emanazione insomma dell'amministrazione comunale di fatto, che diceva: cos'è che caratterizza la nostra città tale da poter essere speso a livello internazionale per attrarre capitali e turismo? Il cibo. Quindi le amministrazioni locali hanno favorito questi processi, dopodiché se li sono trovati tra capo e collo, e le dichiarazioni dell'attuale giunta, come dire, vanno tutte nella direzione negli ultimi mesi di avere compreso che è un problema grosso. Le armi, qualche arma dal punto di vista, come dire, normativo, ce l'hanno, anche se spuntate. Poi io lì bisognerebbe sentire persone che conoscono bene queste cose, perché appunto, però io ad esempio abbiamo visto che a Bologna un primo effetto, un primo provvedimento che ha sollevato tutte le ire, diciamo la rabbia delle associazioni che gestiscono gli Airbnb. Perché uno dei grossi problemi non è quello, non è il singolo cittadino che mette la casa della nonna defunta sul mercato turistico, ma sono queste società di intermediazione, quindi non hanno nemmeno il rischio di impresa di fatto, perché la proprietà non è loro, che gestiscono centinaia e centinaia di appartamenti. E sono state fatte delle modifiche al regolamento edilizio della città. Una riguarda i metri quadri sotto ai quali non si può mettere la casa in affitto turistico, e l'altra adesso non me la ricordo, comunque delle piccole modifiche. Ah, esatto, la questione del cambio di destinazione d'uso, e queste cose comunque, non so in termini adesso, siccome sono abbastanza recenti, sono dell'anno scorso, dobbiamo vedere magari l'anno prossimo quanti appartamenti effettivamente negli annunci su queste piattaforme ci saranno in meno, però vedendo che è stata fatta causa al comune e anche al TAR, evidentemente qualcosa incide. L'amministrazione comunale dice che comunque serve una legislazione nazionale. Da un certo punto di vista è vero, perché i comuni non hanno, cioè hanno un come dire, una, una giurisdizione limitata su, su questi temi, però alcuni strumenti, anche a Firenze è stata fatta una cosa così, lì è stata una battaglia un po' più complessa con cause che hanno avuto esiti differenti, però qualcosa si sta facendo. Questo invece, questo diciamo per descrivere quello che è successo, invece un mio parere personale è che in alcuni casi sembra che queste cose siano state fatte quando i buoi sono già scappati dalla stalla, cioè quando già il fenomeno ha assunto dimensioni e una potenza tale da avere comunque già stravolto tantissimo, perché uno dei grossi problemi degli affitti turistici non è solo sulla quantità di case che vengono sottratte agli affitti normali, ma anche l'effetto che produce invece sui prezzi degli affitti che rimangono, diciamo, per i cittadini e non per i city users o per i turisti, che adesso abbiamo bilocali in affitto a 800-900 euro al mese, sono queste le cifre, quindi la sensazione è che un po', come dire, ce ne si sia accorti e si stia cercando di intervenire un po' troppo tardi. Aggiungo una cosetta anch'io, che qualche tempo fa era uscita una percentuale delle persone che a Bologna erano proprietari di case, non me la ricordo esattamente, ma è altissima. Quindi cioè, già questo fa capire come una politica del genere sia controproducente dal punto di vista elettorale. Quindi secondo me non c'è nessun tipo di interesse nel favorire un ritorno diciamo a un sistema che non favorisce la rendita, perché di questo stiamo parlando. Il problema chiaramente, se lo guardiamo da un punto di vista più generale, è nazionale, perché l'Italia è un paese di proprietari e negli anni quando governava la DC, no, il motto era, non sbaglio, più proprietari e meno proletari, una roba del genere. Quindi le politiche che sono state fatte sono sempre state orientate all'acquisto con incentivi, defiscalizzazione, eccetera. E il paese oggi, in particolare con la deindustrializzazione e la perdita di capacità manifatturiera produttiva, si basa fondamentalmente su quello. Quindi né a livello locale né a livello nazionale, quindi il rimpallo sul nazionale è chiaramente una balla, perché è un problema così grosso che nessuno ci metterà mai le mani fino a quando non si ripensa il sistema generale, quindi è molto complicato. Aggiungo una cosa al volo, così magari rispondo, no, non rispondo, no, però dico qualcosa anche sull'intervento di Matteo prima. Il gioco rispetto alle leggi, considera che appunto noi abbiamo avuto dei presidenti del Consiglio che siamo passati da Renzi, che diceva che l'Italia, Renzi, Farinetti, quel giro lì, che l'Italia era il petrolio d'Italia nel turismo, siamo passati addirittura a questa formulazione ridicola della Meloni, che dice siamo una potenza turistica, che è una contraddizione in termini, perché tipicamente il paese turistico è un paese colonizzato, cioè è un non senso dire una potenza turistica. E quindi su questo lato, però, diciamo che tutta questa vicenda ci mette di fronte a una serie di problematiche che sono notevoli. Una è quella accennata a Salvatore: alla fine, questo meccanismo, cioè di fronte alla deindustrializzazione, è chiaro che c'è un esercito di piccoli proprietari, anche persone del tutto, cioè come, non so come dire, che fai fatica a considerarli dei maledetti capitalisti sanguisuga, capito? Cioè sono i miei vicini di casa, affittano la stanza. Come fa? Cioè, hanno veramente costruito una sorta di classe, che era lo stesso meccanismo che ingenuamente avevano pensato di fare vendendo le azioni agli operai, no? Quando hanno cominciato a dire, anziché il premio di produzione ti do un po' di azioni delle aziende, avevano pensato che in questo modo gli operai si sarebbero sentiti capitalisti. Non ha funzionato, perché le azioni sono una roba che E invece adesso questa cosa qui ha funzionato, perché una casa, un pezzo di casa che è ereditato, con cui costruisci un'integrazione, un reddito che è sempre meno e che sai già che dovrai lavorare fin quando non tracolli per terra sfinito, perché non ti daranno mai una pensione e così via, di fronte a una situazione così fa gola. Così come appunto io ho dei grandi dubbi sulla possibilità reale di organizzare il, la classe proletaria della ristorazione. Cioè veramente che ci sono delle difficoltà strutturali a farlo. Poi tutto è lecito e tutto è, può essere una buona idea, e sicuramente io non vedo, perché sono troppo fuori da giri, quindi non vedo le potenzialità. Io vedo... Il fenomeno grosso, è, come ce l'aveva anche Alessandro, è i buoni scappati. Cioè a Napoli lascia pure che si muova qualcosa, stupirei del contrario, ma a Napoli sono stati sfrattati senza pietà tutte le persone che abitavano, cioè, a parte chi si era trovato per fortuna a propria casa di proprietà, chi era in affitto, con una situazione che di soldi, sinceramente, lo sappiamo, l'eccetto popolare napoletano, le persone anziane, non sono come qua a Bologna, cioè sono gente che non è riuscita a mettere via tutti i soldi che ha messo qui via di soldi pensionato bolognese, e queste persone sono state sfrattate senza pietà per far posto di Airbnb. Questa cosa è già successa, e allora di fronte a questa cosa qui non so, la voglia di, come dire, di vendicarle sarebbe tanta. Strumenti dove cavolo li trovi? E questa è la grande domanda, perché appunto poi il meccanismo ha creato tutta una serie di piccolo consenso, perché poi di fronte, mentre noi ci scanniamo per questi quattro posti dove vivere, dove mangiare, dove dormire, dove lavorare in città, girano dei soldi su altre cose che non, in nessun modo noi possiamo più intercettare, capire, comprendere, no? Ogni tanto arrivano sotto forma di soldi dall'elicottero, in realtà no, perché dobbiamo restituirli, come tipo il PNR, è stato un dispositivo anche quello, qui in città l'avete visto meno perché è normale, ci siamo sempre lavori, ma in provincia l'abbiamo visto come il PNR, sì, non a questo punto, sono d'accordo, però in provincia hai visto proprio come il PNR non solo ha generato lavoro a debito, tutti i soldi che dobbiamo restituire noi, i nostri figli, i nostri nipoti, però non solo ha generato lavoro, ma ha anche generato consenso. Consenso anche in quelle persone che invece, che poi magari rimangono i precari, le precarie, i sovraformati, con titoli di studio fino lì inutilizzati, che si trovano però in questa grande fiera. E anche quello in realtà fa parte del meccanismo turistico, per il PNR italiano è stato tutto declinato, non a dire, poi non so, non ho soluzioni, no, però uno poteva anche dire, se uno governa ha un'ottica diversa dalla mia, quindi ha anche delle cose, dice anche delle cose brutte, allora se io fossi uno che governa dice rifondiamo un'industria nazionale di una roba che ci serve, no? È una cosa che io non mi interessa, non sono in quel mondo, però avrebbe senso da fare. No, è stato tutto declinato per diventare questa ridicolaggine potenza turistica. Con una potenza così, gli strumenti da contrastare, sì, insomma, li dobbiamo inventare, cioè, però ecco, finisco. Molto bella la cosa che ha detto prima Alessandro, ha detto tutto quello che individualmente ci sembra una sfiga, ecco, forse magari già condividerlo aiuta a vederne una dimensione, poi magari non risolvi, insomma ci sento un po' meglio, magari insomma capire, ti dà l'idea di aver capito qualcosa, ecco, questo forse è un aspetto molto importante.